Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La sua passione per la bellezza della tavola, per i profumi, per i colori, cominciano ad incuriosirmi, oltre che a interessarmi. E piano piano inizio ad innamorarmi di lui e dei meravigliosi sapori che mi fa assaggiare. Mi chiamo Alessandra Pezzutti, sono argentina, ho 51 anni, vivo a Verona da 24 anni. Il vino che parla di me e del mio territorio, Federico, il vino Cicogna di uva Sire, dolcezza e durezza dell'animo vicentino. Guido, un Malbec Gran Reserva con un ottimo filetto di Angus argentino. Maurizio, un rossese di dolce acqua, struttura e corpo unito ad eleganza. E poi ancora Ferruccio, un bel lambrusco amabile di Castelrangone, Modena, rosso. E per chiudere, Cristina, il mio vino ottenuto da un'uva rosata dagli acini piccini che raccogliamo solo da metà novembre in poi e che ci dà un bel vino rosato frizzante e naturale. E voi siete qui, ma sembra il gastronauta! Al punto che... non parte il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno Davide! Questo è il pezzo che preferisco, la fisarmonica. Cos'è, una fisarmonica o una fisarmonica? È la fisa. Un saluto a Davide Paolini e a tutto il vino di cui parla, oltre che di tutto il cibo. Oggi noi non parliamo di vino, raccontiamo una storia, come al solito, che è la storia di Alessandra, anzi di Alejandra, che parla un po' di vino e un po' di chi sta in mezzo tra Italia e Argentina, visto che lei è divisa a metà e sta un po' qua e un po' là. 349-238-6666. Abbiamo però anche Facebook e Twitter, sono sempre soliti. Voi siete qui R24 per Twitter, voi siete qui Radio 24 per Facebook. Orvatsky mi scrive: Negramaro Salento, sembra scontato ma è così. C'è un vino che rappresenta voi e la vostra zona? Se deve rappresentare solo la vostra zona va bene, se deve rappresentare solo voi anche, però mi dovete dire tutto. Il colore, vabbè, il colore sembra chissà che. Il vitigno, ci ho messo un quarto d'ora prima di capire che cos'è il vitigno, che credo che sia l'uva alla fine, più o meno, no? Tiziano, anche Tiziano che beve più di me, cioè che più di me, che beve, io invece no, non aveva benissimo idea che cos'era il vitigno e che cos'era tutto il resto. 349-238-6666, parliamo di vino, ma parliamo della vita di Alessandra, parliamo di storie, tutti i giorni in onda in diretta su Radio 24 alle 16, una storia semplice, un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. Continuate a raccontarlo, continuate ad inviarceli i vostri racconti, a voi siete qui, @radio24.it. Tra l'altro ho avuto un grandissimo successo la replica delle 5 del mattino su Radio 24, sono fioccati due messaggi, due per dire, cioè sono arrivati più di due messaggi, cioè due un po' dappertutto, tra Facebook, Twitter e ovunque sia possibile raggiungerci, dicendo che era un piacere sentirci alle 5 del mattino. E i casi erano A, di persone che lavorano, si alzano presto la mattina, B, di persone che vivono all'estero, per cui le 5 del mattino sono, che so io, se stai negli Stati Uniti, se stai di là, se stai a ovest sono, che so io, le 11 di sera. No, 5 del mattino meno 6. 11 di sera, tipo New York, tutta l'Argentina anche, più o meno. Sono verso le 10, le 11 di sera. Se invece stai dall'altra parte, cioè Giappone, do degli estremi, ragazzi. Paolino, non guardarmi come se esistessero solo Stati Uniti o Giappone, sono invece più avanti, cioè sono le, che so, 11 del mattino. Se stai in tangenziale sono comunque le 5 del mattino e ti puppi una storia di voi siete qui, una al giorno dalle 5 alle 5 e mezza e poi comincia la diretta di Radio 24. 349-238-6666, la storia di Alessandra, la storia di chi sta tra Italia e Argentina. Mi chiamo Alessandra, più precisamente Alejandra, dato che sono argentina, italo-argentina. Sono nipote di un friulano, nonno Antonio, che andò in Argentina in cerca di fortuna. Ho 50 anni, vivo a Castelnuovo del Garda. La storia della mia famiglia d'origine è un andare e tornare fra Italia e Argentina. Vivo a Verona dal 1989, sono metà e metà. Madre argentina, padre italiano. Un figlio nato a Buenos Aires e uno a Verona. Due lingue, due cittadinanze, due case nel mondo, due appartenenze culturali vere e radicate. Per me essere argentina è quasi come sinonimo, sai, di essere italiana. Diciamo che la mia identità la sento come italo-argentina, mi sento molto doppia, come questa appartenenza, con una forte appartenenza a entrambe le culture. Di professione faccio la psicologa dell'età adulta presso il distretto sanitario. Mi sono laureata a Buenos Aires e ho esercitato la professione in Italia. Sì, tutto doppio, un po' qua e un po' là. E come destino vuole ho avuto un marito argentino, da cui ci siamo separati, e da 4 anni ho un marito italiano. Ci siamo conosciuti già separati, tutte e due, e abbiamo costruito una famiglia allargata. Carlo, mio marito, ha una figlia di 20 anni e io 2, un ragazzo di 24 e una ragazzina di 13. La nostra è una storia d'amore e di vino. All'età di 40 anni ero separata con 2 figli e ho conosciuto Carlo, veronese, di professione bancario. Quando l'ho conosciuto, dopo un po' di tempo, lui mi racconta che come secondo lavoro, per passione, fa il giornalista enogastronomico. Io non conoscevo assolutamente il suo ambiente, tutto mi era nuovo e affascinante. Una storia d'amore sfociata alla tenera età di 40 e più anni. Ci frequentavamo senza coinvolgere i figli, regola d'oro per una psicologa. Tutto graduale e nel massimo rispetto dei ragazzi, che dovevano abituarsi al nuovo status della famiglia separata. Carlo mi ha conquistata con delle cenette e dei vini che io nel mio piccolo non avrei mai immaginato esistessero. Il venerdì, la serata che entrambi avevamo libera, per almeno un anno mi ha aspettato a casa sua, sul lago di Garda, per una delle sue romantiche e squisite cene. La sua passione per la bellezza della tavola, per i profumi, per i colori, cominciano ad incuriosirmi oltre che a interessarmi e piano piano inizio ad innamorarmi di lui e dei meravigliosi sapori che mi fa assaggiare. Le mie origini friulane si sono fatte sentire e in breve sono diventata una sua allieva, una sua pupilla e la sua amorosa. Lui mi lancia una sfida: se vuoi portare il vino ti do 2 o 3 criteri e tu scegli. Così feci, ho portato il vino per le nostre cene e per un anno o più sono stata regolarmente bocciata. Mi ha insegnato la sinfonia dei sapori, la qualità al di là del prezzo, l'onestà e la superbia del vino. Ripercorrerei volentieri un'altra volta quell'anno pieno di scoperte e di sapori nuovi. Ogni venerdì una tenera bocciatura. Adesso però sento che ho imparato ad assaporare la qualità al di là del mercato e delle mode. E soprattutto vado insieme a lui agli assaggi dei vini, che ci raccontano la storia dei popoli e che svelano l'anima delle persone che vivono un determinato territorio. Il mio vino preferito è lo spumante italiano metodo classico rosé, perché è un vino con una grande personalità, è molto profondo e ha anche una bellissima storia, perché ci vogliono almeno 3 anni di imbottigliamento, di fermentazione in bottiglia. Siamo stati a Pompei, in Svezia, in Libano, a Pantelleria e in Argentina, perché io mi sono innamorata del vino, ma lui è crollato di fronte alla bellezza del mio paese. La Marilyn, la suite petit chef, no le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente bien, y a la cabeza no nos puede ver. La Marilyn, la suite petit chef, no le hablen de las cuestiones sociales, en Recoleta competir solo con gente. Un maestro di tennis argentino, una cameriera bolognese e un falegname di Poggi Bonsi. Questi sono gli argentini che conosco. Armando è un falegname, anzi è un tornitore. Ha una piccola bottega in una viuzza in zona ticinese, a Milano. Il laboratorio è pieno di segatura e di truccioli e ha un poster alla parete in cui è accovacciato con il pallone tra i piedi insieme ad altre 10 persone su un campo di calcio. Bisogna avvicinarsi bene per riconoscere, tra gli altri, un tizio giovanissimo ma già pelato e con il pizzetto, che risponde al nome di Juan Sebastian Verón. Era un calciatore, un giocatore di calcio, Armando, prima di iniziare a lavorare come carpentiere e poi specializzarsi nella tornitura del legno. Ha una 50 anni, è in Italia da 20, anche se la sua famiglia è partita da Poggi Bonsi negli anni 40 e lui è nato là, a Buenos Aires. Quando l'ho conosciuto era in partenza per l'Argentina dopo quasi 10 anni che non ci tornava e aveva paura che non gli sarebbe piaciuta. Poi, quando è tornato, mi ha detto: l'Argentina è il luogo più bello del mondo, peccato che sia in Sud America. Non ho ben capito cosa significasse, ma lo ha detto con una certa malinconia. Miranda invece faceva la cameriera in un bar di Novara. Quando andavo al liceo ero follemente innamorato di lei, anche se aveva 5 anni più di me e a quell'età sono un'eternità. Forse ne ero innamorato proprio per quello. Parlava male italiano, eppure si spiegava con grande facilità. Era castana con una ciocca di capelli biondi, roba che oggi le direi di tagliarsela quella ciocca. Invece all'epoca pensavo che fosse una cosa molto esotica. Pensavo che là in Argentina andasse di moda, ad esempio. Che fosse una cosa figa tra ragazzi, avere ciocche di colore diverso dal resto dei capelli. Che addirittura quello potesse essere un segno distintivo e di appartenenza a non so quale gruppo. Un giorno lei, servendomi il terzo cappuccino che prendevo perché era economico e mi permetteva di stare lì al bancone vicino a lei, mi disse che se avessi avuto qualche anno in più mi avrebbe sposato. E questa, poi, ho imparato, è una cosa che ogni tanto le ragazze dicono ai ragazzetti più giovani, senza essere consapevoli dei danni che possono fare. Miranda però rimane la prima donna con una lingua diversa dalla mia che mi ha fatto innamorare. Anche quando ho scoperto che la ciocca bionda non l'aveva fatta in Argentina, ma da Jean-Louis David in fondo a Corso Risorgimento, a Novara. E poi c'è Flavio. Flavio lo vedo ogni lunedì alle 13, prima di venire in radio. I suoi genitori sono andati a Rosario pochi anni prima che lui nascesse. È cresciuto in quella città, dice, bellissima, dove è nato Leo Messi. È venuto in Italia che aveva 20 anni, grazie a un progetto della provincia di Trento, che permette ai figli degli espatriati di tornare nella loro terra d'origine. Giocava già a tennis e ha iniziato a insegnarlo qui. Ora ha figli italiani, compagna italiana e la mamma italiana, vive in Argentina. Parla dell'Italia come casa sua, degli italiani come i suoi concittadini e dell'Argentina come della sua terra. Ci porta i suoi figli, poi però li fa crescere qui. Ci va e ci ritorna. L'idea però è quella di tornare là, prima o poi. Questi sono i pezzi di Argentina, gli argentini d'Italia che conosco. E tutti, come Alessandra, continuano a essere un po' qua e un po' là. Continuano a vivere sempre nel mezzo. Diciamo che sembra più una professoressa che una psicoterapeuta, Alessandra, anzi Alejandra, nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre sulla pagina di Radio 24 o sulla nostra pagina, voi siete qui su Radio 24. È in una cucina perché si intravedono alle spalle delle piastrelle e una tenda da cui entra una luce un po' invernale. È molto sorridente e non dimostra per niente 50 anni. Pronto Alejandra? Ciao Matteo. Come stai? Tutto bene, anche tu? Ti ringrazio, bene, benone. Posso chiamarti Alessandra? Perché non sono capace di dire Alejandra, cioè mi sento subito un imbecille. Mi sento uno sì, che certo. Prova a fare lo spagnolo e non ce la fa, anzi l'argentino. È meglio, se ci chiamo così. Senti Alessandra, mi dici esattamente che cos'è lo psicoterapeuta o psicologo dell'età adulta? Allora, lo psicologo è la persona che si è laureata in psicologia e ha fatto l'abilitazione. Okay. Lo psicoterapeuta è chi ha fatto un quadriennio successivo di specializzazione e diventa psicoterapeuta, per cui entra nella parte diagnostica e clinica. Ma dell'età adulta okay. che cosa specifica? Significa che mi occupo, chi si occupa di questo tipo di terapia, solo delle persone che hanno più di 18 anni. Ah, ok. Cioè quindi semplicemente una specifica che di solito si dice il contrario, si dice psicologo dell'età infantile per specificare. Certo. Perdonami per questa digressione, ma volevo capire esattamente, tu quindi hai uno studio tuo o lavori in un... Allora io lavoro presso un distretto, per cui presso un servizio pubblico e lavoro anche privatamente presso un'associazione. E ti piace sempre Alessandra oppure ogni tanto è difficile stare... Sì, il tuo lavoro. Il mio lavoro mi piace sempre. Non ti capita mai di arrivare alla sera e dire non ce la faccio a sopportare le storie, le sofferenze di tutte queste persone? No, mai. E perché torni a casa, ti fa... il cammino che si fa accanto alla persona non è di sofferenza, è di condivisione. Che parola, Alessandra. Guarda, Alessandra, l'hai girata in una maniera magnifica, che mi viene voglia di fare lo psicologo dell'età adulta subito. E poi soprattutto torni a casa e hai un marito che ti dà da bere delle cose meravigliose. Esatto, e mi fa delle cene fantastiche. Quindi, ma diciamo, continua a colpire lui. A metà tra la vita onirica e la ciucca, sostanzialmente, la tua. Ma tra... più che altro a metà fra la realtà e la fantasia, diciamo. Esattamente. Senti, quante volte torni in Argentina, Alessandra? Allora, anni fa tornavo una volta l'anno. Adesso un po' meno, un anno e mezzo, a volte due. Che cos'è che ti manca di più dell'Argentina? Ma dell'Argentina mi manca un po' l'immediatezza. Le persone sono molto più immediate, sai, io vivo in Veneto e magari non hanno quell'immediatezza, però io ho imparato a conoscere i veneti, per cui sinceramente non è che mi manca tantissimo. E qual è il metodo per entrare in confidenza con i veronesi, con i veneti? Oddio, che poi ho detto veronesi veneti, adesso mi arrivano dei messaggi di insulto. La pazienza. Okay. Sono semplicemente più lenti. Ok, cioè ci vuole un po' di te. È una cosa che si dice un po' per tutti i popoli chiusi. Guarda, i sardi, i friulani, i veneti, i pugliesi, li devi conquistare, ma quando li hai conquistati... Ma probabilmente perché è vero. Perfetto, benissimo. Niente, Alessandra, mi stai stroncando qualsiasi ipotesi che io faccia per allontanarmi dall'argomento. Tuo marito come sta? Continua a fare... Cosa vuol dire che fa il giornalista enogastronomico? Cioè, che oltre al suo lavoro, che è quale tra l'altro? Sì, sì, sì. Che lavoro fa lui? Lavora in banca. Ah, ok. E ha una rivista, diciamo, dove lui pubblica i suoi articoli. Non è sua, no? È un collaboratore. Chiaro. E fa degli articoli liberamente, lui dopo li pubblica, di solito sono linee un po' particolari, situazioni un po' particolari. Alessandra, invece la tua idea è quella di rimanere in Italia, nel senso non hai in mente di tornare in Argentina a passare la pensione? Sì. No, no, ma è più un'idea di Carlo invece di andare in Argentina, è più... Ma tra l'altro noi diciamo Argentina, ma esattamente quale zona dell'Argentina? Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. E Buenos Aires ti manca più dell'Argentina? Ah sì, sì, assolutamente. Mi dici due cose che riassumono quella città? Buenos Aires, la reina del Plata. Bisogna vedere se l'hai capito. Guarda, ci provo, è la regina, è la regina della Plata, che è il fiume. Esatto, ce l'ho fatta. Sì, sì. Vedi che frequentare un argentino ogni tanto serve. Ti ringrazio moltissimo. Serve. Alessandra, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao e grazie a te. Ciao, grazie. 349-238-6666. Io sono felicissimo del fatto che mi rendo conto che abbiamo una categoria di ascoltatori veramente attenta al dettaglio, perché sono arrivate una decina di messaggi che dicevano: oh, questa l'hai già fatta. E che è vero in parte, ma no, nel senso che questa storia noi l'avevamo accennata l'anno scorso, prima di andare a Vinitaly, perché c'era arrivata la sala di Alessandra più o meno in quel periodo e quindi leggevamo alcuni stralci di storia, poi alcuni li abbiamo solo letti lì, altri ce li siamo portati dietro e siamo qui. 349-238-6666, pecorino d'Abruzzo, scrive Roberto, bianco, profumi di mela, morbido al palato, ottima con pasta, cacio e pepe. Non riesco a non farmi venire in mente albanese che gira il vino con la banana dentro e dopo un quarto d'ora dice è fruttato. Sento il tango e mi cade una lacrima nostalgica, sento la storia e sembra la mia, ma con 20 anni in meno. Alejandra, quindi si chiama allo stesso modo, sentite come l'ho detto, Alejandra, anche con la... veramente un idiota. Maria Teresa scrive: vino rosso, colline lucchesi, 85 merlot e 15% Syrah, 14 gradi e mezzo. È veramente meraviglioso parlare di cose delle quali non distingo nulla se non le percentuali, cioè che l'85% merlot e il 15% è Syrah. Ho rivisto questa mattina la puntata di un programma americano di cui vi ho già sicuramente parlato, che racconta benissimo una cosa che è la stessa cosa che facciamo noi, perlomeno che proviamo a fare noi, che è quella di raccontare un pezzo di storia per mezz'ora, non di più, dalle 16 alle 16:30, e cercare di portarvi da un'altra parte, che non è il luogo in cui vi trovate in questo momento, se sono le 16:29 come è ora o se sono le 5:29 del mattino. Ormai mi è partito il trip delle 5 del mattino, ragazzi, sappiatelo. Ebbene, cercare di portarvi via da lì per un po'. Se ce la facciamo funziona, se non ce la facciamo non funziona. Fatecelo sapere e mandateci le vostre storie. Continuate a raccontare storie e ascoltate il podcast del programma, disponibile online. online. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Alejandra, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Sono Giuseppe Pompo, abito a Parma. La storia di domani è la mia e parla del primo giorno di scuola. Questa è la mia storia e io sono qui.